Allora, iniziamo con una domanda piuttosto generale. La nostra percezione di quello che sta avvenendo in questo momento negli Stati Uniti è che da quelle parti ci sia una sorta di guerra civile, almeno così viene descritta da più parti. Sei d'accordo con questo? Many people are saying that what is happening in the US right now constitutes a civil war, and even journalists are referring to the so-called years of lead in Italy to refer to the dynamic that's underway in the United States right now, Molte with persone reference to dicono, like stanno dicendo che quello che sta America. And I don't think accadendo that in this questo factor, I momento do negli not Stati Uniti, believe in a civil costituisce war, una sorta di but I guerra do civile. think that Anche we're i living in a kind giornalisti of strategy per of tension, descrivere le dinamiche in atto, and this is si a very serious riferiscono per dynamic, esempio and ai people cosiddetti are anni di losing their piombo in lives. Italia, o But we fanno have to understand riferimento that in the spesso context of a American questo periodo political violence over the storico last per 50 years, confrontare e the per situation is paragonare a quello relatively che unarmed, sta avvenendo relatively adesso negli Stati Uniti, ma less io violent, non credo che questo sia il modo fundamental giusto, il modo più characteristics of corretto per domestic affrontare la questione. anti-1970. Non But penso fundamental che stiamo characteristics of vivendo civil una war guerra are civile. Non mi engaged piacciono molto le subjects definizioni, engaged in penso, se devo war, proprio definire, penso che in stiamo vivendo in constituencies. una sorta di This is strategia definitely della occurring. tensione, e The questa è una dinamica che, establishment a left prescindere dalle definizioni, says va we are presa living in a molto, civil war, molto, but molto civil war seriamente. is Sai, ci coming, sono and tante there persone che is hanno a fault perso la with vita. humanitarian Tutto ciò aid, va compreso nel contesto americano di violenza politica weighing on che the c'è stato Democratic negli ultimi Party. 50 anni. Se paragonata To many people, per esempio, agli mobilizing anni and having 70, alle to maintain caratteristiche a mobilizing fondamentali di quel support, periodo, anche quelle degli Stati maybe on the Uniti, right si side, potrebbe dire che it's a la civil war, situazione è ancora relativamente justifies meno violenta. violence against Ma protesters, sempre per restare a such questa as definizione, ci sono delle demolitions and caratteristiche actions fondamentali taken della by guerra civile. C'è per esempio una simmetria del terrorists in conflitto tra le Neo-Shreveport, parti. where he killed Ci sono anche due posizioni 1,000 elettorali protesters in just 3 o 4 weeks competizione. In un certo ago senso, under da questo punto di protest. vista, And the si può Kazakhstan dire che il border paese è on quasi spaccato in of due. similar E similar questo, sai, type of sta violence, similar sicuramente type of accadendo. violence Il until a few years discorso ago, si sta but yet the spostando anche violence su is una still sorta di protest narrazione specific and strumentale. L'establishment di sinistra dice che stiamo vivendo una guerra civile, o che una guerra civile sta per arrivare, credo, per spingere le persone a votare Joe Biden, che di fatto è un personaggio molto odiato, soprattutto nella sinistra, proprio perché rappresenta l'estrema destra, l'ala destra del Partito Democratico. Così tante persone di sinistra, non tutte, ma alcune, dicono: ok, proprio per questo dobbiamo votare Joe Biden, dobbiamo prevenire la guerra civile. Molte persone invece a destra, sempre in maniera strumentale, dicono che c'è una guerra civile in corso e lo fanno per giustificare un certo tipo di violenza poliziesca, quella che abbiamo visto e che vediamo ancora contro i manifestanti, o i tipi di azioni intraprese dalle cosiddette milizie, come durante l'assassinio di Kyle Rittenhouse in Kenosha, nel Wisconsin, dove sono stati uccisi più manifestanti solo 3 o 4 settimane fa durante le proteste, e ci sono innumerevoli episodi del genere che si sono verificati in tutto il paese. Una tattica simile, posso dire, è successa già a Charlottesville alcuni anni fa, quando le persone appunto usavano le automobili per andare contro i manifestanti, per ferirli gravemente, e ormai questo negli Stati Uniti non fa più neanche tanto notizia. Solo succede così tante volte che appunto non fa, è una cosa che non fa notizia. Per non parlare poi delle persone che sparano contro i manifestanti, o che lanciano dei veri e propri ordigni rudimentali contro di noi durante le manifestazioni. Tuttavia devo dire che l'insurrezione è diffusa, è molto diffusa, ma non credo che appunto viviamo in una guerra civile, ma appunto, come già detto, in una sorta di strategia della tensione. Succede anche questo, che i sindaci di molte città americane sono del Partito Democratico, ma questo non è così nelle zone rurali, nelle campagne o nelle periferie. Quindi, dove ci sono rivolte ancora forti, in città di sinistra, dove c'è una, diciamo, della controcultura, o città un po' più militanti come Portland, i democratici stanno sperimentando quella che si potrebbe definire una sorta di politica Polizia Democratica, che tuttavia non ha lesinato ad attaccare e continua a farlo i manifestanti sparando i proiettili di gomma, gas lacrimogeni, ma è la ferocia della rivolta, è la forza della rivolta che respinge la polizia. Invece Donald Trump dice, appunto, usa questa strategia discorsiva, dice che il Partito Democratico sta permettendo che queste rivolte continuino perché non hanno nessun interesse a difendere i piccoli proprietari e le piccole imprese. È così che sta cercando di alimentare e di fomentare il risentimento della piccola borghesia. Mentre il problema dei democratici è che non hanno una vera e propria risposta alla crisi di legittimità che stanno avendo in questo momento negli Stati Uniti, soprattutto all'interno delle generazioni più giovani. Sai, io direi che adesso negli Stati Uniti ci sono milioni, davvero milioni di persone che sono più a sinistra di Bernie Sanders, quindi sì, direi che per rispondere a questo la situazione si sta davvero polarizzando. Bernie Sanders. So the situation is polarizing. Yeah. Per entrare più nello specifico, è evidente anche da qui quanto sia diffusa e quanto sia partecipata la protesta in generale negli Stati Uniti, ma ci interessava anche capire, secondo te, dal tuo punto di vista, qual è il ruolo specifico che hanno avuto gruppi di compagni e compagne nelle varie vicende che ci sono state, e qual è stato il ruolo invece delle persone, diciamo così, meno politicizzate, o se ha ancora senso, secondo te, tenere questa distinzione. First of all, it's necessary to understand that according to some calculations by the New York Times, upwards of 23 million people participated in the George Floyd rebellion starting in late May. Ok, innanzitutto è necessario capire che, appunto, come dicevi anche tu, secondo dei calcoli del New York Times, più di 23 milioni di persone hanno partecipato alle rivolte in seguito alla morte di George Floyd, a partire quindi da fine maggio, cioè prima delle recenti manifestazioni nel Kenosha o in Wisconsin. Quindi questo rende questo movimento probabilmente uno dei più grandi movimenti sociali nella storia americana. Ecco, non sono sicuro se movimento sociale sia la definizione corretta, ma comunque sicuramente è una cosa immensa quella che sta avvenendo. Ecco perché è davvero importante capire che questa rivolta appartiene a tutti, ed è importante capire questo prima di discutere, appunto, il ruolo dei compagni e delle compagne o delle cosiddette persone non politicizzate. Sai, quello che io penso è che ogni volta che c'è una rivolta, solitamente sono le persone, proprio le persone non politicizzate in precedenza o magari non organizzate ad essere le più attive. Spesso avviene questo, è molto chiaro, perché la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato in strada non erano attive organizzate nella loro vita quotidiana, o magari sì, avevano delle idee di generali di contestazione, di protesta, ma non è quello che forse noi chiameremo proprio dei compagni o delle compagne. Ovviamente sarebbe anche scorretto e fuorviante dire che compagni e compagne non abbiano avuto alcun ruolo. Penso che molte persone stiano dicendo, soprattutto nel giro, appunto, di compagni e compagne, la cosa che ci diciamo spesso, una cosa che ci ripetiamo spesso quando avvengono avvenimenti così immensi e così grandi, cioè che siamo stati tutti colti alla sprovvista, che tutto ciò ci ha trovati assolutamente impreparati, che tutte le vecchie categorie, metodi e forme di organizzazione diventano inutili nell'attualità della rivolta. Ci sono tante persone che pensano e dicono questo. Penso che sarebbe anche scorretto non dire che quello che è avvenuto abbia anche letteralmente messo fuori uso determinate categorie e determinate idee politiche che anche noi avevamo. Ma ci tengo a dire anche questa cosa, sai, dal mio punto di vista penso che tra di noi, tra compagni e compagne, molti erano in qualche modo, in un certo senso, preparati a questo. cosa voglio dire? Certamente non eravamo pronti proprio all'entità di quanto è avvenuto, di quanto sta avvenendo. Sarebbe stupido, sciocco dire che qualcuno sapeva che questo sarebbe accaduto o quando sarebbe accaduto o la portata di tutto ciò. Ma sai, anche parlandoci tra compagni e compagne, è come se noi in qualche modo avevamo la percezione che qualcosa stesse per accadere e che prima o poi si sarebbe verificata un'insurrezione. Questo per vari motivi. In molti di noi, appunto, abbiamo fatto tanto proprio per prepararci a questo tipo di evento e per preparare quante più persone possibili a tutto questo. Che dire, sai, ci sono anche molte teorie cosiddette quasi complottiste che dicono che sono state le persone politicizzate, gli anarchici, ad organizzarsi e a usare strumentalmente le proteste. E ovviamente questo è totalmente ridicolo, ma sai, rimanendo proprio sul ruolo specifico di compagni e compagne, si può dire che questo periodo sia stato in grado di fare alcune cose. Magari abbiamo portato delle nostre pratiche, siamo riusciti a stabilire dei fondi per pagare le cauzioni in tutto il paese, utilizzare in un certo modo delle chat su Telegram o altri canali. Abbiamo costruito hub di risorse, oppure avevamo il modo per fare molto rapidamente dei volantini e soprattutto direi anche diffondere certe tattiche in strada o in piazza, devo dire, tattiche principalmente difensive, che sai, alcuni tipi di sabotaggio, azioni dirette. O tecniche distruttive o il saccheggio sono cose molto conosciute e non sono cose di cui si deve tanto parlare. L'uso degli scudi, l'uso dei caschi, gli occhiali, i guanti, questo genere di cose sono diventati molto molto popolari. E su questo abbiamo avuto un ruolo, penso che tra compagni e compagne ci sia stata anche una sorta di influenza internazionale. Quello che voglio dire è che le persone qui negli Stati Uniti hanno studiato le rivolte, quelle occorse nel 2019 in Cile, in Libano e sicuramente un'altra molto importante è stata quella di Hong Kong. Qualunque cosa si possa pensare rispetto a queste precedenti rivolte, è stata per noi una sorta di cassetta degli attrezzi tattica, che poi noi abbiamo messo semplicemente a disposizione, del movimento. E penso che, molte persone qui negli Stati Uniti siano state influenzate da questo. Ma è necessario fare un'altra, appunto, puntualizzazione che sembra scontata e ovvia, ma ci tengo a dirlo, insomma, questo tipo di rivolta è stata ed è una rivolta, multirazziale, multietnica. Non è esatto, secondo me, dire che questa è semplicemente una ribellione dei neri americani, ma sarebbe ovviamente anche molto stupido non dire che i giovani neri, soprattutto all'inizio, sono stati un'avanguardia conflittuale. In questa situazione sono stati i primi ad agire, hanno avuto un ruolo fondamentale, molto importante. Sicuramente sono quelli che sono stati sin dall'inizio più determinati in tutto il paese e questo è molto importante per capire poi la dinamica di tutto quello che è successo successivamente. Ok, continuando su questo, che tipo di discorso c'è? Che tipo di discorso state articolando sull'uso della violenza all'interno del movimento, soprattutto durante i momenti di riot? Come è possibile non essere schiacciati dalla solita e tipica distinzione tra buoni e cattivi manifestanti, soprattutto come stiamo vedendo che è proposta dai media? It's kind of interesting this conversation in the US. I have been for some È time piuttosto talking interessante questa conversazione, questo tipo di discorso negli Stati Uniti. Ne ho parlato per molto tempo con i miei compagni e con le mie compagne perché ovviamente penso che il discorso su violenza e non violenza come dibattito all'interno di un contesto politico, specialmente del contesto politico americano, sia un po' una falsa pista, non sia un modo buono per affrontare i problemi. In particolare nell'ultimo decennio ci sono state molte teorie, che quelle dell'identità politica, oppure alle politiche anti-oppressione, o alla teoria critica sulla razza, o cose del genere. Non so se il tipo di ricezione c'è stato di questo in Italia, ma essenzialmente per noi è molto difficile, da un punto di vista politico, condannare, prescindere l'uso della violenza, soprattutto quando questo tipo di violenza è esercitata nel modo in cui abbiamo visto, e soprattutto quando sono i neri a esercitarla, visto tutto quello che succede. Ma ovviamente l'establishment, ripeto, spesso anche quello di sinistra che lo fa questo discorso, c'è proprio un vero e proprio ordine discorsivo organizzato per criticare l'uso della violenza. E ovviamente poi c'è tutta la parte destra, di destra, che lo fa, e quello che fa è chiamare i manifestanti semplicemente dei saccheggiatori. Ovviamente è assurdo dire che siano semplicemente, come spesso avviene, dei delinquenti, come poi ha fatto Obama nel 2014, e anche lui è stato ampiamente contrastato per questo da parte nostra. È davvero ridicolo questo dibattito tra buoni e cattivi manifestanti, ovviamente perché si svolge in un contesto di violenza. Una critica della violenza c'è, ovviamente, all'interno del movimento, ma non nel modo in cui ci si potrebbe aspettare. Sai, ti cito un altro sondaggio, si dice che c'è il 54% del paese si è dichiarato favorevole, o una cosa del genere, quando c'è stato l'incendio del distretto di Minneapolis, il che significa che questo tipo di cose sono, o questo evento in particolare è stato più popolare di quanto sia popolare Joe Biden o Donald Trump. Ovviamente ci sono diverse persone che sono contrarie, o proprio non sopportano un certo tipo di azioni, e molto è stato detto, per esempio, sul saccheggio, non solo qui negli Stati Uniti. Ovviamente è molto facile, quando no, ci sono gli attacchi contro la polizia, soprattutto quello che è successo in seguito all'omicidio di George Floyd, che, ok, un conto è attaccare la polizia, un conto è anche scontrarsi violentemente con la polizia, un conto è invece, appunto, fare determinati gesti di vandalismo o determinate azioni. Ci sono alcune persone che appunto fanno questa distinzione, ma secondo noi anche questo tipo di distinzione non è centrale, è abbastanza stupida, perché non si capisce bene qual è la vera e propria partecipazione politica anche dei bianchi. Vedi, è proprio qui che le cose iniziano a diventare più complicate, e soprattutto per il ruolo delle persone bianche, che magari si ritrovano spesso in prima linea. E questo è uno dei discorsi dominanti, è una delle narrazioni dominanti della controrivoluzione, della controinsurrezione, perché attraverso questa distinzione, ovviamente buoni e cattivi, ma non succede solo qui negli States, si tenta proprio di disarticolare un movimento politico che invece, da questo punto di vista, è abbastanza omogeneo. La cosa che si cerca di fare è quella di mettere in prima linea la tua posizione sociale e il tuo ruolo, così appunto si cerca di screditare tutta una serie di azioni che invece tutte insieme fanno parte di questo momento insurrezionale che c'è negli Stati Uniti, senza troppe distinzioni. Molte persone non sopportano più le rivolte perché il Partito Democratico ha iniziato a diffondere in maniera molto forte una sorta di teoria del complotto, secondo la quale questo tipo di gesti, questo tipo di rivolta aiuta effettivamente Donald Trump, e aiuta quindi la destra a diventare più forte, a rimanere al governo. Ma immagino che comunque molte persone non credano a questa cosa, anche se devo dire che le battaglie che abbiamo visto magari adesso, proprio per questo discorso, potrebbero vedere un numero lievemente inferiore di partecipazione. The tactical toolbox that they have made available. I think American protesters were very influenced by. E continuando ancora su questo tema, volevo chiederti come state affrontando la questione del cosiddetto privilegio bianco all'interno del movimento, che tipo di dibattito c'è su questo? And picking up on the fourth question now, which is related to my answer on the third question, you know, the question of white privilege and the role of white militants in the struggle. Vedi, questa domanda è collegata a quello che, di cui stavamo parlando prima. Sai, la questione del privilegio dei bianchi e il ruolo dei militanti bianchi all'interno della lotta è sicuramente un tema e non può che essere così. È molto legato a quello che ti dicevo prima perché, sai, fin dall'inizio, sin dai primi giorni della rivolta, i notiziari locali, si dice, apparentemente consigliati dall'FBI, hanno iniziato a far circolare dei veri e propri rapporti secondo cui le rivolte iniziavano grazie ai cosiddetti agitatori esterni, come per esempio è successo in maniera molto forte a Boston, e questo è veramente un vecchio discorso razzista che risale al movimento abolizionista, che è stata una strategia per combattere le insurrezioni degli schiavi e poi sicuramente per combattere il Freedom Movement, a volte qui era chiamato il movimento per i diritti civili. C'è una vecchia storia veramente razzista secondo la quale gli schiavi erano troppo stupidi per potersi organizzare da soli e per decidere di combattere i loro padroni, quindi c'era tutta una storia che tendeva appunto a infantilizzarli, tutta una storia che diceva che probabilmente ricevevano finanziamenti da qualcuno, avevano il sostegno dei bianchi. Insomma, penso che questo discorso abbia anche le sue radici in narrazioni di questo tipo. Diciamo che in ogni caso il discorso dell'agitator, quindi delle persone, diciamo, dei bianchi che hanno utilizzato strumentalmente la protesta dei neri, è abbastanza sviluppato, si è abbastanza diffuso in tutto il paese. I militanti bianchi spesso sono stati appunto additati in modo fuorviante da tutti i notiziari, da tutte, insomma, dall'informazione in generale, come a volte come nazionalisti bianchi sotto copertura, a volte come dei suprematisti bianchi che cercano appunto di screditare il movimento facendo determinate azioni, o come a volte addirittura come agenti di polizia sotto copertura. Devo dire che sono davvero tante queste specie di teorie del complotto che sono circolate, e molte di loro, di queste, secondo noi, sono state proprio spinte e fomentate dalla polizia. Il fatto, secondo me, è che è davvero complicato, soprattutto per determinati gruppi politici, e devo dire anche in questo caso quelli che fanno riferimento alla sinistra istituzionale, è davvero difficile per loro spiegare quello che sta avvenendo, cioè, e soprattutto è difficile poter gestire il fatto che ci sono gruppi multirazziali di giovani e non solo che distruggono vetrine, che sono in grado di organizzarsi, che sono in grado di essere molto combattivi o magari di tenere una carica, di tirare indietro gas lacrimogeni per tanto tempo. Direi che all'interno di questo tipo di cultura, in questo momento negli Stati Uniti, sta emergendo, soprattutto nelle sezioni più combattive, stanno emergendo diversi discorsi molto interessanti sulla questione del privilegio dei bianchi, e devo dire che molte cose sono, secondo me, cambiate in maniera davvero radicale negli ultimi mesi. Proprio all'inizio, per esempio a Minneapolis, dove appunto l'interazione tra bianchi e neri, chiamiamola così, è stata all'inizio piuttosto estemporanea, ma poi la situazione è cambiata molto in fretta, ed è cambiata soprattutto anche in alcuni luoghi del paese in cui magari non c'erano proprio dei momenti insurrezionali molto forti, ma sicuramente c'erano diversi scontri e anche diversi gesti di cosiddetto vandalismo. In altre situazioni era anche comune, si sentiva spesso da organizzatori della classe media o semplicemente gli organizzatori di internet, chiamiamoli così, persone che magari venivano a delle manifestazioni con un megafono per protestare e iniziavano a fare questi discorsi, che i bianchi dovevano andare di fronte o al lato della folla e mettere il proprio corpo tra i neri e la polizia come fossimo una specie di scudo. E questo, devo dire che questo tipo di discorso c'è stato e c'è ancora in parte, ma penso che anche in questo caso i problemi teorici siano abbastanza ovvi e facili da capire. Forse in questo momento gli unici a mantenere un po' questo tipo di discorso sono gli studenti universitari bianchi, che continuano a sentirsi in colpa per i loro privilegi. Ovviamente i loro privilegi relativi spesso sono questioni legate alla provenienza sociale. Sono gli unici ad ascoltare e a dare credito a questo tipo di discorso, e credo che siano anche le uniche persone in questo momento che non siano in grado di difendersi o di difendere nessun altro dalla polizia o da quello che ci succede per strada. Il discorso che si è fatto strada e che è veramente interessante all'interno del movimento Black Lives Matter è un po' diverso rispetto a questo. Abbiamo iniziato a dirci che non dovevamo dividerci in base alle nostre identità oppure ai nostri relativi privilegi, o dividerci in base a questioni razziali. Le questioni sono cambiate, i discorsi sono più sulla nostra, sono andati più sulle nostre capacità, la nostra preparazione, sul nostro ruolo che desideriamo quando siamo in mezzo a una folla di persone. Sai, quello che ci diciamo è che dovremmo essere sempre più eticamente organizzati, cioè secondo la nostra idea di ciò che vuol dire vivere bene, di che cos'è una buona lotta, di come dovremmo combattere, piuttosto che semplicemente cercare delle scorciatoie sociologiche per dare delle risposte che poi spesso non portano da nessuna parte. Quindi vedo sempre di più anche all'interno delle folle che c'è molto mix di persone, e soprattutto anche in prima linea non ci sono più solo i neri. Ovviamente, lo ripeto per correttezza, il loro ruolo è stato, ma questo nella storia degli Stati Uniti e continua ad essere fondamentale. Però quello che vedo è quello che si è visto all'interno di ogni momento di lotta è che c'erano sempre più persone capaci di reggere degli scudi, persone capaci di stare in prima linea, persone in grado di tenere a distanza la polizia, persone che con attrezzature mediche magari sulle retrovie, persone magari che vengono alle manifestazioni con un casco e un respiratore, si mettono dietro per aiutare le persone. Quindi diciamo che sempre più persone hanno cercato di metabolizzare alcuni di questi ruoli. Devo dire ancora una volta che le proteste che si sono svolte a Hong Kong hanno svolto un ruolo importante per molti compagni e compagne che vi hanno partecipato. Penso che tutto ciò, cioè la pratica, il fatto che ci si è ritrovati in strada insieme, si sono vissuti insieme determinati momenti, abbia aiutato a respingere alcuni dei vecchi discorsi rispetto al privilegio bianco, che continua ad esistere, ma ce lo stiamo ponendo in maniera diversa. C'è una cosa però importante da aggiungere, che si collega a quanto abbiamo detto finora, che c'è tutta una parte legata ai liberali o anche all'estrema destra che si oppone, ovviamente si sta opponendo a questa forza del movimento, e continuano, quindi sono loro che continuano a spingere in maniera molto forte il discorso razziale e continuano a usare in maniera molto forte il senso di colpa bianco per condannare il movimento o anche a volte per controllarlo, oppure semplicemente per diffondere la rabbia dei bianchi per attaccare il movimento, e appunto, come avete visto, lo fanno soprattutto o con le auto, lanciandosi con le auto sulla folla, oppure con le armi, con le pistole. The far right, who oppose the movement militantly, they continue to push racial discourse and continue to use either white guilt to condemn the movement or to control it, or white rage to attack the movement with guns and with cars. Allora, un'altra domanda d'obbligo sulla questione delle armi. Gli Stati Uniti sono storicamente un paese armato, e durante questi giorni di protesta l'uso delle armi è stato molto diffuso, e quindi volevamo un po' sapere qual era il dibattito all'interno del movimento e anche tra compagni. The question of arms, the fifth question, is a difficult one for the movement to confront, but it's an important one. I think, allora, questa è una domanda molto complessa e una questione anche difficile da affrontare per il movimento, ma penso allo stesso tempo che sia davvero molto importante. Penso che il discorso sull'uso delle armi sia, nonostante tutto, poco sviluppato negli Stati Uniti, cioè si usano ma non c'è un discorso su questo. Nonostante ci sia anche una lunga storia di lotta armata contro la supremazia bianca che risale proprio agli albori del paese, al colonialismo, alle cose, alle lotte più recenti degli anni 70. Ma sai, la questione è questa, che durante le proteste ci sono sempre state delle armi, le proteste sono sempre state armate in questa ondata insurrezionale. Ci sono molti neri con le armi, molti bianchi con le armi, milizie antifasciste che usano le armi, i cosiddetti Boogaloo Boys, appunto alcuni personaggi di cui sicuramente avete sentito parlare. Ci sono armi da tutte le parti, vengono usate spesso all'interno degli scontri, quindi sai, tutto questo è molto comune. Naturalmente i pericoli sono evidenti rispetto a questa cosa, penso che qui non sia sempre chiaro. Allo stesso tempo però penso che l'uso delle armi non è sempre univoco, non è sempre la stessa cosa, ci sono diversi modi per usarle. L'uso stesso in diversi momenti produce sentimenti diversi anche all'interno della folla, e posso dirlo con certezza. Sai, è molto diverso se un giovane prende una pistola dalla tasca e spara un paio di colpi in aria quando vede che la Guardia Nazionale si sta avvicinando troppo, come è molto diverso quando qualcuno prende un fucile e apre il fuoco sulla folla. Quindi sai, tutto questo è abbastanza rilevante, non si può dire che è sempre la stessa cosa, non bisogna fare un discorso univoco. Penso allo stesso tempo che le persone in generale siano preoccupate sull'escalation di violenza che c'è stata negli Stati Uniti, ovviamente tranne i Boogaloo Boys, come dicevo, l'estrema destra, che invece hanno una specie di feticcio per l'utilizzo delle armi, e anche una narrazione, appunto, sul, come dicevo prima, su una possibile guerra civile, una guerra civile in corso, e questo loro lo ritengono anche vantaggioso per loro, il fatto che ci sia questa escalation di violenza. È difficile aggiungere molte cose su questo. Posso dire che a volte le armi sono necessarie per difendersi in situazioni estreme, e questo è abbastanza ovvio. Ovviamente tutto ciò può portare a un aumento generale, come dicevo, un'escalation generale, a un aumento di violenza, e soprattutto a una sorta di conflitto di tipo militare anche tra gruppi piccoli, e penso che nessuno all'interno del movimento voglia questo. Into a kind of militaristic conflict between very small groups, and I think nobody wants that. Ok, sono passati più di 100 giorni dall'inizio di questa rivolta e dall'omicidio di George Floyd. Sarebbe impossibile chiederti, insomma, di fare un resoconto di tutto quello che è avvenuto, però se puoi magari ripercorrere a tappe quello che è successo, magari attraverso degli eventi che ti hanno colpito particolarmente. Okay, yeah, so a kind of quick overall timeline since the killing of George Floyd by the Minneapolis police. If I had to just give a fast and dirty timeline, I would say, you know, the next day, the day after he was killed, there was clashes outside of the third sì, una specie di cronologia generale rapida. Dall'uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis è davvero difficile, quasi impossibile da fare, ma appunto, procedendo molto velocemente, diciamo che il giorno dopo che è stato ucciso George Floyd ci sono stati scontri fuori dal terzo distretto di Minneapolis, e alcuni atti vandalici che sono diventati poi dei saccheggi durante la notte. Tutto ciò è avvenuto nel quartiere circostante, e poi quegli scontri sono ripresi il pomeriggio successivo e il giorno dopo ancora. Immagina decine di migliaia di persone che si sono sparse per la città scontrandosi per ore e ore contro la polizia. In tutta la città sono stati saccheggiati i negozi, sono stati bruciati, e alla fine, dopo una battaglia molto lunga che si è protratta molto nel tempo, il terzo distretto è stato abbandonato dalla polizia sotto una pioggia di pietre. In seguito poi ci sono stati scontri e disordini a Minneapolis, poi sono continuati, ci sono state dimostrazioni molto combattive a Denver, Louisville, Columbus, Ohio. Penso che da questo momento tutti più o meno abbiamo avuto un'idea che tutto ciò si sarebbe diffuso, perché queste non sono delle città molto grandi. Poi alla fine, quel 30 maggio, nella tarda notte del 29 maggio, meglio, quando appunto è stato bruciato il distretto di polizia, e direi che poi lì dal 1 giugno c'è stata una vera e propria insurrezione a livello nazionale in tutti gli Stati Uniti. Non saprei dirti quante città in questa settimana hanno visto, sono state teatro di scontri e manifestazioni. Centinaia di piccole città, incluse queste incluse ovviamente, ci sono stati scontri, saccheggi diffusi, auto della polizia in fiamme. Per esempio, nel centro di Atlanta ci sono stati saccheggi e distruzioni e macchine della polizia bruciate per giorni interi. In alcuni quartieri di New York vengono distrutte macchine della polizia, saccheggi, che insomma ci è sembrato abbastanza strano e assurdo. Sai, veramente ovunque, Beverly Hills, Los Angeles, auto in fiamme a Oakland, San Francisco, ogni grande città. In ogni grande città ci sono stati scontri, saccheggi sistematici e diffusi, ma anche, come dicevo, nelle piccole città. Per esempio a Grand Rapids in Michigan ho sentito dire da compagni e compagne che le rivolte e saccheggi che sono durati diversi giorni alla fine si sono fermati perché tutti gli obiettivi erano stati distrutti, ogni negozio, ogni punto vendita era stato vandalizzato, saccheggiato o bruciato. Questo, insomma, solo per farti capire la portata di quanto è successo. Un'altra cosa, il centro commerciale, un grandissimo centro commerciale in Florida, su più livelli, è stato dato alle fiamme. Hanno partecipato a tutto questo davvero molte persone, soprattutto la rabbia nei confronti della polizia era molto diffusa e devo dire anche molto popolare. Ho avuto racconti incredibili di compagni e compagne un po' da ovunque. Sai, sono stati giorni davvero incredibili. Al telefono tutto il tempo, tutta la notte, nessuno riusciva a dormire. Pensa, io non sono riuscito a mangiare per giorni, ci nutrivamo di frullati proteici per settimane, incontri continui, persone che addirittura hanno lasciato il lavoro, a parte le persone che insomma facevano lavori essenziali, soprattutto legati alle questioni della pandemia e del Covid-19. Ovviamente è stato un momento decisamente bello per noi, davvero eccitante. Ho sentito dire in diversi luoghi hanno trasformato i loro centri sociali, i loro posti in una specie di depositi per il movimento, posti dove si potevano raccogliere bottiglie d'acqua, caschi, guanti, felpe, cose del genere. E sai, centinaia di persone ogni giorno, persone di ogni tipo, venivano a portare rifornimenti o a prenderli se servivano. Tutto questo tipo di energia, questo si era davvero molto molto diffuso in tutto il paese e è importante ribadirlo anche non solo nei grandi centri, ma anche nelle periferie. E questo per quanto riguarda, diciamo, la prima settimana. È stata, dal mio punto di vista, una vera e propria insurrezione. La Guardia Nazionale non è riuscita a fermarla. Niente ha potuto fermare veramente questa energia, questa forza. Forse solo le teorie, queste strane teorie un po' complottiste, hanno funzionato un po', per rallentare le cose. Poi le cose si sono un po' calmate, hanno avuto un piccolo rallentamento dopo che alcuni agenti della polizia sono stati arrestati a Minneapolis e dopo che c'è stata questa proposta di sciogliere la polizia. E da qui c'è uno sviluppo, diciamo così, parallelo del movimento ad Atlanta, in Georgia. Rachard Brooks è stato lì ucciso dalla polizia in un quartiere a sud di Atlanta e ha girato un video su questo, ci sono dei testimoni e immediatamente tutto il quartiere è intervenuto e ha iniziato a inveire contro la polizia. Il giorno successivo, poi c'è stata questa scena al Wendy's, che è una specie di fast food dove è stato ucciso Rachard Brooks, e subito da lì sono partiti scontri con la polizia, è stata bloccata un'autostrada e il Wendy's ha stesso ha preso fuoco questo fast food, e poi la folla è marciata in maniera molto determinata verso il più vicino distretto della polizia, anche lì ha continuato a scontrarsi con la polizia. E come detto, questi avvenimenti aprono una specie di sviluppo parallelo di questi eventi che si sono susseguiti in maniera molto rapida, quindi la rabbia per l'omicidio di George Floyd e Breonna Taylor e anche per i martiri del movimento stesso uccisi dalla polizia e dalla Guardia Nazionale in quella prima settimana ci avevano dato una certezza che di fronte a cose del genere saremmo stati in grado di reagire e di portare in strada quel livello di scontro e di rabbia. Durante questo periodo, poi nella seconda settimana di giugno ci sono continuate manifestazioni e anche ci sono stati anche scontri di tenore più basso, c'è stata una grande produzione di scritti, sono continuate appunto le proteste a Richmond, Portland e altre città, dove poi è iniziata quest'altra pratica di abbattere i monumenti confederati, che è stata una grande cosa, una cosa molto importante della seconda settimana di giugno. Anche la terza settimana in cui sono state bruciate e abbattute molti monumenti dei confederati e monumenti coloniali, questo è avvenuto in tutti gli Stati Uniti, dove appunto folle si dirigevano verso queste grandi statue di marmo, di bronzo per abbatterle. Un'altra cosa importante, il 4 luglio c'è stata una manifestazione molto importante ad Atlanta, sono successe anche a partire da lì molte cose. È stato parzialmente incendiato un tribunale di Oakland, un centro di detenzione giovanile incendiato a Seattle. Poi arriviamo al 25 luglio, che anche è stata una data molto molto importante, dove c'è stata questa grande chiamata alla solidarietà a Portland, e Portland è stata praticamente invasa dalla polizia federale e questa anche la ricordo come una giornata molto importante. Ci sono anche in questa giornata sono stati scontri molto molto forti con la polizia, e questo fino a quello che è successo nel Kenosha, dove Jacob Blake è stato colpito 7 volte alla schiena in questa piccola e strana cittadina del Wisconsin che si trova a un'ora da Chicago, dove una settimana e mezza prima c'era stata una serie di manifestazioni e di saccheggi. Anche qui in seguito a questo ci sono stati molti scontri e penso che subito c'è stata una reazione da parte proprio della gente contro la polizia. Le persone hanno bruciato l'ufficio di libertà vigilata e hanno vandalizzato il tribunale. Insomma, questo è quanto è avvenuto. Tutto ciò è andato avanti per diversi giorni, finché poi una milizia di destra spara e uccide 2 manifestanti, e poi ricominciano le battaglie armate, vere e proprie battaglie armate di gente che si spara per strada, miliziani che sparano ai manifestanti, poliziotti che sparano ai manifestanti che rispondono. Poi c'è stato un altro omicidio a New York e anche lì ancora scontri. Poi lo stesso repertorio tattico di questi scontri è corso, direi, a Los Angeles. Ci sono scontri notturni a Portland. Appunto, è difficile ricostruire tutto, però questa è un po' la struttura basilare di quanto avvenuto. Just nightly clashes in Portland. And so that's kind of where the movement is at now. This isn't so brief. Maybe you'll have to edit some of this out, but this is the basic structure of the movement. E in conclusione, qualcosa sulle elezioni presidenziali che ci saranno a novembre. Sembra che tutta l'attenzione, ci sia molta attenzione rispetto al movimento Black Lives Matter. Sembra che i due candidati abbiano delle posizioni opposte rispetto a questo tema. E sembra da qui che ci sia una sorta di appropriazione strumentale da parte del Partito Democratico. Cosa ci vuoi dire su questo? About the politics and the election, I don't know what the international coverage is like, but I the The Democratic candidates, Joe non so Biden che tipo di copertura mediatica ci sia a livello internazionale, ma i candidati democratici, Joe Biden e anche gli altri, sono stati molto chiari sul fatto che sono contrari, se non proprio al movimento in generale, comunque sono stati molto chiari sul fatto che sono contro la rivolta. Sai, tutti nel paese sono disposti a dire che, appunto, che sono dalla parte di Black Lives Matter, ma fino a che, diciamo, fino a un certo punto, fino a che diciamo, i toni della protesta non vanno oltre certi limiti, ma questo è un gioco politico a cui siamo abituati, diciamo, il gioco degli estremi. Ma penso che sinceramente che i democratici non possano assolutamente non si stiano appropriando del movimento. Forse è più corretto dire che ricattano il movimento, che è molto diverso. Dicono che, per esempio, che le rivolte stanno aumentando il sostegno a Trump, e quindi ci stiamo, appunto, spostando più a destra in seguito a quello che sta avvenendo. Poi forse nei paesi più piccoli penso che ci sono dei politici democratici locali che sostengono in maniera un po' più aperta le proteste, ma si tratta di una sfera molto limitata. Penso che le persone che fanno parte del movimento, milioni di persone, decine di milioni di persone che poi supportano il movimento stesso, non penso assolutamente, non credo che siano le stesse persone che possono supportare Joe Biden. C'è chi fa un calcolo molto cinico su questa cosa, dicendo, appunto, che forse Joe Biden è il peggior candidato possibile, eccetto Donald Trump. Ma sì, forse qualcuno dice questo, ma penso che le persone che hanno partecipato a tutto quello che è avvenuto difficilmente andranno a votare per Joe Biden, che è uno stronzo imperialista e tutti pensano che deve essere schiacciato. Penso questo. Ovviamente c'è una parte astensionista molto forte, inclusi ovviamente gli anarchici, gli abolizionisti. Sono tutte persone che non votavano prima e non voteranno neanche adesso, e penso questo. Including anarchists and not just, also many kinds of abolitionists, and many, you know, almost half of the country does not usually vote. And those people will continue to not vote for all of their reasons, personal and political.